Ecco di sti giorni, please. Dentro i miei visi lacrime, oui. Bam bam. Quando sparo sopra te, nuvole nere. Liricamente, miserie. Di sto pianeta manca la corrente fottuta. La mia mamma è perduta. Dentro la mia testa c'è una morte che vorrei vedere rivissuta, man. Questa cosa non l'ho mai detta, ma a te spiego cose che direi soltanto a un microfono. Vorrei poter cantare con te. Forse mi sentirai lontano dai miei guai, coi miei guai, in una nuvola nera che non sai mai. Parlare di che? Di come sanguina sangue dentro me. Respira sangue, e questo muro langue esploderà. La trappola che mi è stata fatta dentro a un orgoglio di tuono diverrà. Breccia cenere, tu sei feccia contro ere di lacrime, di gente scomparsa in un muro fatto a pezzi e poi inquinatamente tu, io ben ben sopra te, siamo la mia gang e tu morto in più che parla, bam bam e ciao Dio. Io sono io, tu chi sei, boh, sei G-Z-D-O-O. Dentro un muro di nano non ti metterò. Questa è la mia risposta però, adesso muto ad ogni mio vissuto. Ho portato una croce di Cristo, lavorato come un povero Cristo, come un crocifisso addosso e mezzo stipendio a me. Anche se lavoravo dai miei guai, non le saprai mai. Ti tolgo il saluto, vedrai quanta gente ancora. E tu mi ascolterai, imparerai da me il contrario, la parte oscura dei vissuti tuoi. Il sangue inverso che scorre mio verso dentro giorni in cui io non mi trovo. E poi bam, sopra della tempia ho un'arma costantemente puntata a me. Dimmi, 1, 2, 3, ancora dimmelo De André. Io sono la cosa più osè che Dio ha mai creato, che Lucifero in un tabacco sognato in terre d'arabesco. E poi voi volate contro, sparate sti avvoltoi, vuoi cazzi tuoi, oi. Noi siamo le carcasse, noi gli avvoltoi, oi, oi. Magari mi sbaglierò, ma vuoi resuscitare pure me dentro i sogni tuoi, oi. Non ci sono paragoni se vuoi, oh. Io sono solo me, una mente frebile. Io sono lebile, nella mente incancellabile lei, che svanisce nel nulla dei miei guai. Troppo, forse un giorno imparerò e imparerai a io amarmi, vorrai, mentre lui ti porterà via da me. Io e te sul sempre insieme, in una lacrima che freme. Cancelliamo questo, mettiamo un sorriso, vogliamo verso un sole.